2024. Vincitore dello European Podcast Award, il premio ai migliori podcast europei. We have had some technical problems. Hit it. 2 0 2 4 2024. 2024. Welcome to the 2014 International CES to Radio 24. To Radio 24. Ed ecco a voi la puntata speciale di 2024 dedicata al Consumer Electronics Show di Las Vegas, il più importante appuntamento mondiale per l'elettronica di consumo. Allora iniziamo con il nostro speciale e con i nostri ospiti. Di Enrico Pagliarini. Questa è la puntata dell'11 e 12 gennaio 2014. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Questa settimana abbiamo per voi una puntata speciale, siamo a Las Vegas, dove si è appena concluso il Consumer Electronics Show, una manifestazione gigantesca con 3200 espositori, conferenze di ogni genere, tantissime persone che arrivano da ogni parte del mondo, perché questa effettivamente è la manifestazione più importante per l'elettronica di consumo. E devo dire che oramai la Consumer Electronics sta coinvolgendo un po' tutta la nostra vita, un po' tutti i prodotti. Qui abbiamo visto veramente che cosa significa Internet of Things, ma ne parleremo. Abbiamo passato 5 giorni a vedere nuovi prodotti, parlare con esperti, con gli espositori, e sicuramente questo è ancora un appuntamento dove si respirano i trend da seguire per i prossimi anni. Partiamo da una delle cose che abbiamo sentito ripetere più spesso, wearable devices li chiamano gli americani, la tecnologia da indossare, quindi strumenti, apparecchi che possiamo metterci addosso. Sicuramente l'anno di questi oggetti che vanno oltre gli smartwatch e ai braccialetti che abbiamo già visto lo scorso anno, già da parecchio tempo li vediamo, abbiamo visto, devo proprio dire, una esplosione di oggetti che si possono mettere al polso, in testa, al collo, in cintura, da qualsiasi parte del nostro corpo, che misurano ogni genere di dato biometrico e ci raccontano che cosa facciamo e anche che cosa dovremmo fare. L'industria sta spingendo molto forte in questa direzione, mentre i consumatori si fanno ancora molte domande. Carolina Milanesi, che abbiamo incontrato con piacere, abbiamo rincontrato con piacere in questi giorni del Consumer Electronics Show, è uno degli osservatori più autorevoli e attenti del mondo della Consumer Electronics e da pochi giorni lavora per la società di ricerche Kantar. Secondo me quello che manca ancora tanto è il messaggio del perché. I venditori cercano di convincerci che tutto deve essere connesso perché è possibile tecnologicamente, ma non ci danno veramente una ragione, un beneficio vero a questa tecnologia che abbiamo a disposizione. Uno dei temi di cui si parla moltissimo è quello che gli americani chiamano wearable devices, quindi tutto quello che in qualche modo può essere indossato. Io continuo a dire che già le cuffiette erano indossabili, però certo stiamo parlando di cose molto più intelligenti. Vedi qualcosa di interessante e soprattutto come vedi l'evoluzione di questo ecosistema? Prima di venire a CES avevo detto che il 2014, come CES confermerà, sarà l'anno dei wearable, ma non per le vendite, non perché i consumatori si lotteranno per andare a comprare queste cose, ma perché i venditori ci impiegheranno tutto un anno a cercare di capire che cosa funziona, che cosa, se io come consumatore vado in un negozio, come cambia la mia predisposizione ai wearable da ah sì carino ma non voglio spendere i soldi a wow, questo veramente cambia la mia vita e lo voglio. E non ci siamo ancora. E secondo me quello che è stato interessante qui è vedere tantissimi prodotti. Mi sembra che in tutto, se non ho contato male, siamo intorno a 20-25 prodotti che sono intorno al polso in qualche modo. E poi tantissimi occhiali come Google Glass, per esempio, che ci sono anche. Che però non... Come soluzione non danno una ricchezza di esperienza al consumatore, e secondo me tanti dei quali non arriveranno sul mercato, anche se arrivano nessuno se li compra. La cosa interessante però è vedere che incomincia a differenziare un pochino la differenza tra quei wearable, quegli smartwatch che sono come Pebble, come il Galaxy Gear, come il Sony Watch 2, un po' uno schermo in più che ci portiamo per le notifiche e un pochino di data, e invece quello che per esempio ha presentato Sony, di cui non ci hanno detto tanto tutti i dettagli, ma hanno parlato di Sony Core, che è big data, che è una collezione di dati nostri, un raccoglitore, esatto, di dati nostri su social, entertainment e health and fitness. E usano quei dati per poi migliorare in qualche modo la nostra vita. Quindi interessante questo approccio, che ci riporta alle bande fitness che hanno iniziato tutto questo trend, no? La Nike e la Jobon App. Sì. Quindi tu dici, da una parte gli orologi, giusto per farci capire, che servono giusto per vedere che cosa abbiamo sullo smartphone, che magari abbiamo nello zaino o in tasca, eccetera, e invece tutti quegli strumenti che, per semplicità, chiamiamo braccialetti, ma che poi possono essere integrati in mille altre cose, che sono un altro trend di questa famiglia dei wearable devices. Esatto, insomma. Esatto. La differenza tra appunto l'essere collegato, ma come input di meccanismo e di collezione, e invece l'altro che è forse un pochino salva un po' l'apparenza di non essere sempre col naso attaccato a un cellulare. Allora, ricordiamo che molte delle cose viste al Consumer Electronics Show arriveranno sul mercato nel corso dell'anno, quindi anche verso la fine dell'anno. Altri sono solo prototipi, quindi non arriveranno proprio sul mercato, sono solo idee tecnologiche. Una delle parole che abbiamo sentito pronunciare più spesso è sensore, sensoristica. Parliamo di accelerometri, giroscopi, bussole, sensori di pressione, di temperatura, di umidità, eccetera, eccetera. Sensori sempre più piccoli, parliamo di un millimetro, e sensori a basso costo, parliamo di centesimi di dollaro, di euro, comunque una tecnologia sempre più disponibile, tutti possono comprarla e creare degli oggetti con questi sensori. Per fare capire il trend, gli americani dicono sensorization della Consumer Electronics Show, non so se si possa dire in italiano sensorizzazione. Luca Tremolada, che è stato con me questa settimana, scrive sul Sole 24 Ore, e anche in questo fine settimana, anche in questo weekend, su Nova, il Sole 24 Ore, in edicola la domenica. Luca, partite proprio da qui per fare un'analisi di questo Consumer Electronics Show, dalla sensorizzazione. Hai detto benissimo, ma non so neanch'io come si dice. L'unica cosa che ho chiaro, Enrico, è che per la prima volta quello che noi scriviamo, ogni tanto tu racconti in radio, arrivano i sensori, va via la privacy, il mondo sta cambiando, ecco, noi l'abbiamo visto. Abbiamo visto queste tecnologie che si indossano, addirittura Intel sta lanciando le tecnologie, Intel è presente, quella del primo produttore mondiale di chip al mondo, sta facendo prodotti, gadget, auricolari, sensori, il computerino che si attacca al vestito. Allora, quello che dobbiamo abituarci è un mondo dove la tecnologia non è più il computer e lo smartphone, ma sono sensori che ci guardano, che ci controllano e che con cui dobbiamo in qualche modo imparare a dialogare. Sì, questo è sicuramente un trend interessante, perché giustamente tu dici che sembra paradossale, lo smartphone non è più nuovo. Ma infatti, ma anche perché lo smartphone è qualcosa di esterno. Se io lo smartphone ce l'ho addosso, a quel punto cambia un po' anche il mio rapporto con la tecnologia. Probabilmente cambierà anche il nostro modo di concepire gli oggetti tecnologici, internet delle cose. Noi un po' di queste parole, questi trend ne parliamo, li stiamo vedendo oggi, li abbiamo visti a Las Vegas, saranno nei nostri negozi tra un anno e mezzo, che dici? Però in qualche modo dovremo imparare a conviverci. Hai visto qualcosa che ti ha colpito? Ma allora, tantissime cose, restando in questo tema, Mother è un giocattolo, sostanzialmente è una matrioska bianca, anche piuttosto brutta va detto, che si piazza a casa e attraverso i sensori controlla tutto. Infatti il claim è: mamma sa tutto, che è agghiacciante se ci pensi. Cioè, da grande fratello alla mamma. Alla mamma, fratello. Tra l'altro il creatore di Mother, ho scoperto, è quello che ha inventato i Nabatak, che non so se te li ricordi, erano dei coniglietti wifi, è un israeliano, per cui sul controllo sono anche piuttosto bravi. E Mother che cosa fa? Ti controlla quanto la mangi, se c'è nel frigo c'è qualcosa, se manca qualcosa, quante volte vai a lavarti i denti, attenzione, va a vedere se dormi la notte, va a vedere in casa chi sta entrando, insomma è un... Tu dicevi giustamente, un grande fratello, una grande mamma che probabilmente dà anche fastidio, però ti controlla tutta la casa, eh? Sì, tu hai detto che questo sembra un giocattolo, perché effettivamente oggi molte di queste tecnologie che hanno sensori a bordo sono ancora forse alla fase del giocattolino molto nuovo. Sì, infatti l'altro dato interessante che stiamo vedendo qui a Las Vegas è che non ci sono solo i grandi, ci sono tantissime start-up, piccole realtà, che proprio per il fatto che i sensori sono diventati a basso prezzo, li stanno montando e stanno creando qualcosa di nuovo. O non tutto sarà meraviglia, però quantomeno c'è aria nuova, e non so se anche tu stai percependo qualche cosa che sta cambiando, non è più solo Sony, Samsung, ci sono nuovi attori, poi bisogna vedere se stanno in piedi e se sopravvivono. Sì, questo è un dato interessante, cioè che la tecnologia sta diventando veramente a basso costo e tutti possono con un'idea fare qualche cosa. Creerà però, immagino, anche delle preoccupazioni tutto questo ecosistema che ci avvolge, che ci tocca addirittura. Qui negli Stati Uniti, che insomma hanno le orecchie, gli occhi lunghi, non so se dice così, ma lo diciamo lo stesso, stanno già preoccupandosi, tanto che non so se tu conosci i droni, no? Anzi, li conosci sì, benissimo, sì. Esatto. Allora, al congresso qualcuno ha alzato la mano e ha detto: ma con tutti questi droni, queste macchine che sono programmabili, ricordiamoci, di Arduino, cioè tutta con la possibilità di poter programmare della tecnologia e degli oggetti che si muovono, chi mi dice che un domani un'organizzazione criminale non entra con un virus o via Bluetooth o via Wi-Fi dentro questi oggetti e cominci a fare qualcosa che non va fatto, delle sì. Esatto. E soprattutto, chi paga in quel caso? Sì, che è la stessa domanda che ci si sta facendo nei confronti delle automobili automatiche. Bravissimo. cosa che vedremo fra molti anni, però uno dei problemi è proprio chi interviene o chi coinvolgere in caso di problemi. È sempre la fantascienza che a noi piace tanto, però al congresso stanno dicendo: attenzione, forse questo fenomeno dei robot va un po' controllato e bloccato. Vediamo, stiamo a vedere. Abbiamo parlato di droni e sicuramente continua ad esserci una forte attenzione su questo settore. C'erano importanti parti di alcuni padiglioni dedicati proprio ai droni, ma nessuna novità eclatante. Abbiamo visto anche una parte importante di un padiglione dedicato alla stampa 3D, uno dei mega trend. Anche qui nulla di particolarmente nuovo, se non prezzi in ribasso, ma in entrambi i casi, sia per quanto riguarda i droni sia per quanto riguarda la stampa 3D, vedendo le ultime start-up e alcune aziende che esistono nel nostro paese che abbiamo visto negli ultimi mesi, devo dire che gli italiani hanno delle ottime carte da giocare in questi settori. Allora, prendiamo il caso della stampa 3D. Di entrambe queste cose parleremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi del 2024. Oggi non ci focalizziamo molto, però prendiamo il caso della stampa 3D. Al Consumer Electronics Show, l'italiana DVS ha dimostrato una superiorità tecnologica, una tecnologia particolarmente interessante che ha pochi simili nel mondo. Maurizio Costa Beber è il direttore generale. Noi facciamo stampanti 3D professionali dal 2007, siamo presenti su alcuni settori di nicchia, gioielleria, dentale, medicale, industriale. Qui al CES abbiamo presentato la nostra prima stampante consumer. Utilizziamo la stessa tecnologia delle macchine professionali, si chiama stereolitografia, dove abbiamo un laser che solidifica dei materiali liquidi. In questo modo abbiamo la possibilità di ottenere degli oggetti di grandissima qualità superficiale, praticamente identici ad oggetti eseguiti con tecniche di produzione di massa. Ci fai un esempio di che cosa è possibile stampare, di fatto produrre oggetti tridimensionali? Direi possiamo produrre qualsiasi oggetto che entri nell'area di lavoro della macchina. La nostra tecnologia non ha nessun limite di complessità, stratifica con uno spessore di 10 millesimi di millimetro qualsiasi forma tridimensionale che venga disegnata con un computer. Possiamo utilizzare 9 materiali, tutti sviluppati da noi, tra cui la maggior parte delle materie plastiche, ABS, polipropilene, ma anche materiali flessibili, gomme, elastomeri, siliconi, addirittura ceramica per oggetti di grande resistenza meccanica. Avete detto che questo è un prodotto consumer, quanto costa? In realtà X-Fab è il nome della nostra macchina, è un prodotto di fascia prosumer ed è venduto negli Stati Uniti a $5,000. Giusto per citare brevemente gli italiani, visto che abbiamo parlato di un'azienda italiana, non erano tantissime, erano una decina le aziende del nostro paese. Tecnogym, forse il nome più noto, che ha presentato tutta, potremmo dire, l'apertura delle proprie macchine per il fitness al mondo di Android, delle applicazioni anche per Google Glass. Oppure IK Multimedia, IK Multimedia, che è specializzata in applicazioni e accessori per musicisti che vogliono usare smartphone e tablet, è famosa per un prodotto che si chiama iRig, che ha presentato la iRing, una sorta di anello che una volta indossato permette di pilotare un software muovendo solamente la mano, sfruttando la videocamera di un tablet o di uno smartphone. Poi hanno esposto al CES, al Consumer Electronics Show, anche Puro, Sisvel, GlassUp, N&D's Design Hands Company. Bene, questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, questa è una puntata che abbiamo realizzato a Las Vegas, adesso ci fermiamo per una breve pausa, riprendiamo tra poco. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Radio 24, welcome to the 2014 International CES. Riprendiamo questa puntata speciale che abbiamo realizzato a Las Vegas al termine del Consumer Electronics Show. Io sono Enrico Pagliarini, questa è Radio 24. Tra poco sarà con noi anche Gianfranco Giardina, il direttore del magazine digitale dday.it, che è sempre un nostro ospite fisso quando c'è il Consumer Electronics Show, per parlare di altri trend che abbiamo visto. Diamo solo un veloce sguardo al mercato, perché un conto sono le tendenze e le novità che vedremo tra qualche mese o qualche anno, un conto è la direzione attuale del mercato. Prima dicevamo che gli smartphone sono, potremmo già considerarli un prodotto vecchio, ma sono ancora quello che oggi domina il mercato. Steve Koenig è un analista del mercato globale, lavora alla Consumer Electronic Association of America. Global technology spending is, we estimate this year about $1.055 trillion. La spesa globale per il settore sarà nel 2014 di $1.055 miliardi, una cifra sicuramente molto importante. Ci sarà però un leggero calo dell'1% dovuto al fatto che si vendono più prodotti, ma i prezzi stanno scendendo, soprattutto in Asia. In terms of the device trends, it's all about mobility and connectivity. So smartphones and tablets really are the devices that consumers around the world are very interested in, they're very keen on owning that technology. Quello che la gente vuole, dice Koenig ai microfoni di Radio 24, in tutto il mondo sono sempre smartphone e tablet. Bene, allora torniamo ai nostri mega trend. Parliamo adesso di automobili. Allora, il 90% dell'innovazione in un'auto oggi arriva da componenti elettriche o elettroniche, e c'è chi ha detto durante il Consumer Electronics Show che le auto sono i nuovi smartphone, nel senso che si stanno lentamente riempendo di sensori, stanno diventando parte dell'elettronica di consumo, si stanno caricando anche di sistemi operativi. Questo è un altro trend molto interessante. Potremmo definire, io vedo tre linee di sviluppo di quella che chiamiamo infotronica. Allora, quella di medio-lungo periodo, che ci porterà a veicoli automatici o semi-automatici. Un'altra, sempre di medio-lungo periodo, di connettività fra l'auto e le infrastrutture, quindi fra l'auto e l'autostrada, la città, i semafori, i servizi che ci sono all'interno di una città. Fra un'auto e un'altra auto per scambiare informazioni ci vorranno ancora alcuni anni. Una linea di sviluppo molto più vicina, di cui vediamo già alcune applicazioni concrete sulle auto di oggi o quelle che stanno per arrivare, diciamo la prossima generazione di automobili, è quella della connessione a bordo del veicolo e poi anche la connessione tra il veicolo ed internet, ma quello che riguarda soprattutto l'intrattenimento a bordo. Allora, se oggi la nostra vita è fatta da decine di applicazioni con cui ascoltiamo la musica, guardiamo le previsioni del tempo, le notizie, la borsa, facciamo un sacco di altre cose con il nostro smartphone. Allora, una delle esigenze del consumatore, dell'automobilista quando è a bordo dell'automobile, è quella di avere a disposizione questo mondo di applicazioni mentre siamo in auto, ma non basta collegare allo smartphone, perché dobbiamo averlo a disposizione in modo semplice, che non sia pericoloso per la guida. Ne abbiamo parlato con Massimo Baldini, che è presidente di Livio, una società che lo scorso anno è stata acquisita da Ford e che cerca proprio di risolvere questo problema creando uno standard. Volendo connettere le informazioni che ci sono sullo smartphone, iPhone, Android, al cruscotto della macchina, non c'era e ancora non c'è praticamente una soluzione unica che permetta a chi produce un'applicazione, agli app developers, di poter accedere tutte le macchine o la maggior parte delle macchine con una soluzione. Chiaramente, se io avessi un'applicazione Massimo Radio, facendo un'applicazione per iOS copro milioni di iPhone, un'applicazione per Android milioni di telefonini Android. Se faccio un'applicazione con Jaguar Land Rover, che mi costa come tempi e soldi probabilmente più che non fare un'applicazione per iOS e Android, ho 10.000 macchine, non ha senso. Perché i produttori di auto già hanno un sistema di infotainment basato, esatto, su un software. Quindi. Esatto, e quindi in pratica quello che abbiamo visto 3 anni fa come Livio era l'opportunità di creare uno standard che permettesse di nuovo a molteplici applicazioni di connettersi con molteplici sistemi, che sia dalla General Motors, Ford, Chrysler, Toyota, Volkswagen, di tutte queste aziende automobilistiche. Come è noto, il mondo automobilistico si muove con la lentezza di una lumaca, quindi siamo 2-3 anni dopo. Quello che è successo è che in pratica Ford un anno fa circa si è reso conto dello stesso problema, quindi hanno preso la loro soluzione che si chiama AppLink e l'hanno messa sul mercato per altre aziende, altre entità, perché gli altri potessero utilizzarla. E in pratica hanno preso la loro AppLink e l'hanno messa sul mercato come open source. E nel contempo abbiamo cominciato a discutere e alla fine, a settembre dell'anno scorso, Ford ha comprato Livio, così che Livio può utilizzare le risorse, i brevetti, i prodotti che abbiamo sviluppato negli ultimi 3 anni per spingere la soluzione che era Ford ma che adesso è open source, che tutti quanti potrebbero utilizzare. Che già utilizza qualcuno o non ancora? Ford, sì. Un anno fa hanno annunciato questo e io speravo personalmente che già a questo CES ci fosse la possibilità di annunciare altre aziende automobilistiche. Non siamo ancora lì, siamo vicini con 2 o 3 o forse anche 4 in gioco. Quindi stiamo parlando di un team di sviluppo, il vostro, sì, di fatto spinge uno standard. È l'unico standard sul mercato? In pratica sì, è l'unico standard che ha specifiche caratteristiche, che vuol dire che funzioni sia con iOS che Android. Ci sono altre soluzioni come MirrorLink che funziona solo con Android, e ci sono poi soluzioni proprietary che sono specifiche di aziende automobilistiche, per dire Entune con Toyota, GM Link con General Motors. Ciascuna azienda ha la loro soluzione, che è, ritornando a bomba, è il problema principale, che non si può per una app developer avere a che fare con 20-30 differenti protocolli per raggiungere in totale 6-7 milioni di macchine. È un numero grosso, ma non è gestibile. Se sei una piccola azienda, non hai 50 ingegneri al 100% dedicati a gestire questa frammentazione. L'esigenza fondamentale è quella dei consumatori, che oramai non sono soddisfatti solo per i consumatori, non è sufficiente diciamo la radio FM, sì, oppure il CD, cioè c'è qualcosa in più, questo è un po' il problema? Sì, non è un'opportunità più che un problema, nel senso che con l'avvento dei telefonini siamo tutti, chi ha un telefonino smartphone, praticamente abbiamo applicazioni che usiamo giornalmente sia per guardare che tempo farà, il traffico, musica, e chiaramente avendo l'internet a portata di mano, musica, se io sono a Milano ci saranno, non so, 30 stazioni FM, 30-40, se sono su internet ce ne sono 100.000, quindi chiaramente ho la possibilità di trovare esattamente quello che piace a me e anche non essere geograficamente limitato. Quindi quella è un'opportunità. Il concetto è che per i consumatori stanno diventando chiaramente consci di questa opportunità e vogliono, è una cosa logica, vorrebbero avere la possibilità di utilizzare quelle applicazioni che usano quando vanno in giro a piedi, di utilizzarle in macchina e in maniera sicura, quindi direttamente dal cruscotto, e non, having, non avere il pollicione sul telefonino e rischiare di andare a schiantarsi. La connessione a questo punto invece radio, parlo di 3G o 4G LTE, quindi la connettività che utilizzo per poi usufruire di questi contenuti è la connettività mobile. Sì. Attraverso una SIM card che è inserita nell'auto o attraverso la SIM card, e quindi poi tutto il mio abbonamento, il mio piano dati dello smartphone? Potrebbe essere entrambi. Ci sono varie scuole di pensiero, e chiaramente dipende dai costi. Cioè in pratica, se io pago già in America $100 al mese circa per avere unlimited data, quindi dati illimitati per il mio iPhone, io personalmente non ho intenzione di pagarne altri 20, 30, 40 per avere la mia macchina connessa. Preferisco personalmente, come consumatore, un data point, utilizzare il mio telefonino. Ci sono soluzioni, per esempio BMW offre la serie 5, vendono la macchina con già praticamente un telefonino, una SIM card integrata, e ha dei vantaggi. Ha il vantaggio che non hai da fare, non devi connettere, fare pairing, è già tutto lì, quindi dipende dal consumatore, c'è spazio per entrambi. Quindi ci saranno le due soluzioni. Assolutamente, sì. Senti, ma c'è sufficiente banda? Qui negli Stati Uniti vedo che c'è una forte pressione verso lo sviluppo del 4G, dell'LTE. Sì. Stessa cosa in Europa, poi dipende un po' dai paesi, c'è chi spinge di più, c'è chi sta spingendo di meno, ma ad oggi ci sarebbe sufficientemente banda? No, se tutti quanti magicamente domani decidessero che vogliono ascoltare internet radio, la radio internet, tramite il loro smartphone e non ascoltare più FM tramite broadcasting, no, andrebbe la rete andrebbe a bagno velocissimamente. Sì. Però in pratica tutto ciò non succede. Non è un problema oggi, diciamo. Non è un problema oggi. Il problema è si sta muovendo il mercato in quella direzione, e ovviamente i vari Verizon, i vari providers sono molto attenti a questo. Quindi 4G diventerà 5G, 6G, WiMAX. Chissà che cosa escogiteranno, però non credo che diventi il fattore limitante. Se oggi tutti quanti decidessero di fare quella, di prendere quella decisione, sarebbe un fattore limitante, ma col tempo credo che i due problemi vanno praticamente a pari passo. È sicuramente un trend, un'evoluzione molto interessante e molto eccitante da un certo punto di vista, ma anche in questo caso stiamo parlando di una evoluzione a medio-lungo periodo, quindi 3, 7, 10 anni, quindi avremo anche tempo per riparlarne. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, questa è una trasmissione speciale dedicata al Consumer Electronic Show, l'abbiamo realizzata a Las Vegas, abbiamo una breve pausa, riprendiamo tra poco. 2024, disponibile anche in podcast su radio24.it. 2024. Riprende 2024, io sono Enrico Pagliarini, questa è una puntata speciale che abbiamo realizzato al Consumer Electronic Show di Las Vegas, che si è concluso questo venerdì, un appuntamento estremamente interessante per capire dove si muove il mondo dell'elettronica di consumo che si sta espandendo. Ringrazio Pietro Lacorte che si occupa della parte tecnica di questa puntata, ed ora vi presento Gianfranco Giardina, il direttore del magazine digitale dday.it. Gianfranco, bentornato a 2024 e bentornato a Las Vegas. Per l'ennesima volta, sì, un saluto a tutti gli ascoltatori. Questa è la numero 20, 22, quanto? No, 18. Siamo solo a 18. Per me è 18, sono diventato maggiorenne del Consumer Electronics Show. Sì. Esatto. Senti, partiamo proprio da uno sguardo su questa edizione. Il tuo parere qual è? Ma è un'edizione un po' di transizione, di passaggio. Dovrebbe essere un'edizione molto importante perché è l'anno dei mondiali di calcio. Come sempre l'anno dei mondiali di calcio, soprattutto per il TV, è un momento cruciale del mercato. Però arriva in un momento ovviamente di crisi internazionale su molti mercati, quindi non tutti hanno magari espresso il coraggio che si pensava. È un momento di transizione anche per quello che riguarda la proposta, che da prodotto nudo e crudo, come siamo sempre stati abituati, sta sempre più migrando verso una serie di piattaforme e quindi banalmente i sistemi operativi che conosciamo, ma anche diciamo piattaforme legate anche al cloud, al web, e servizi da sviluppare su di esse. E quindi è sempre più difficile vedere allo stand un singolo prodotto che ci colpisce, ma bisogna mettere insieme un po' di tasselli, perché il mosaico di tutti questi tasselli che poi diventerà un super prodotto e che ci darà un'esperienza nuova. Quindi ci vuole anche una capacità, già da parte nostra evidentemente, per riuscire a capire questi trend. E qui si pone un altro problema, una capacità poi del consumatore, dell'utente, di riuscire a mettere insieme tutti questi pezzi, che magari vengono alcuni dalle grandi compagnie internet, altri vengono dai produttori di hardware e altri pezzi dai produttori di software. Mettere insieme tutte queste cose non è facile per noi e non sarà facile nel futuro anche per il consumatore. Serve più preparazione per poter godere di cose sicuramente incredibili e nuove, ma che non arrivano più già pacchettizzate, ma devono essere, come dire, selezionate e messe insieme dall'utente. Allora, storicamente al Consumer Electronics Show si sono visti molti televisori. Negli ultimi anni il settore dell'elettronica di consumo si è espanso a cose impensabili fino a qualche tempo fa. Tuttavia va detto e va ribadito che i padiglioni più grandi, cioè gli stand più grandi, sono ancora quelli dei produttori di TV. Tu sei d'accordo con chi dice che i prodotti di cui si è parlato di più sono le nuove TV che hanno di nuovo cambiato forma? Sì, se ne è parlato molto, soprattutto per il layout dello schermo. No, abbiamo messo 50 anni per ottenere uno schermo piatto. Prima era superficie sferica, poi è diventata superficie cilindrica con i tubi catodici Trinitron, poi prima con i primi tubi catodici col vetro piatto davanti e poi ovviamente con plasma LCD siamo arrivati ad avere lo schermo piatto. Oggi questo concetto, questo traguardo viene messo in discussione e si passa allo schermo curvo, però nel senso che è concavo, non è più convesso, è leggermente ricurvo, quasi ad avvolgere, diciamo così, idealmente lo spettatore. E questo layout curvo è diventato una specie di virus, nel senso che si è diffuso a partire da alcuni produttori che l'hanno ispirato, ma ne abbiamo visto almeno TV curvi in una decina di stand. Significa che questo sta diventando un nuovo trend importantissimo e alcuni ne ha fatto quasi una ragione della gamma 2014. Allora, a tal proposito sentiamo quello che ci ha detto Marco Annapel, che è il responsabile della divisione audio video di Samsung, che sicuramente è tra i grandi produttori di TV quello che sta credendo di più in questa nuova forma dei televisori. Allora, il TV curvo, che è la novità più attuale, nel senso che verrà lanciata in Italia nel mese di marzo 2014, presentata al CES, avremo schermi curvi sia Ultra HD che in formato Full HD, LED e OLED, ma soprattutto LED, prodotto che ha due vantaggi abbastanza evidenti. Il primo è una visione molto più uniforme, quindi aiuta un approccio più immersivo nella visione, e il secondo è la visione dello schermo curvo aiuta una dimensione più grande dello schermo, è una visione indotta di uno schermo più grande. Cioè, secondo voi sembra più grande, diciamo? Sì, secondo gli studi e secondo, diciamo, la geometria sia dell'occhio che del prodotto, dovrebbe avere un effetto più grande in termini pollici del televisore. Quindi il catalogo aumenta e oggi un consumatore, o meglio, fra qualche settimana avrà a disposizione quattro tipi di schermi. Li riepiloghiamo tutti? Sì, giusto. Quindi quattro scelte, due dimensioni sono Ultra HD o Full HD, quindi 4K. Una diversa risoluzione. Esattamente, quindi quattro volte la risoluzione Full HD o il Full HD classico, curvo oppure il classico flat screen. Quindi quattro combinazioni disponibili in moltissimi polliciaggi e con tantissime differenze di Smart TV all'interno. Senti, a proposito del 4K, visto che ancora non ci sono i contenuti, la vostra posizione qual è? Perché c'è chi dice che non sono tanto utili, perché poi non ci si può vedere quasi nulla. Sì, il contenuto arriverà, chiaramente i broadcaster devono dare un pochino di innovazione in questo, però è visibile facilmente molto contenuto generato dall'utente finale. Esistono camere, esistono cellulari, smartphone che possono creare contenuti 4K visibili sui televisori, ed esistono comunque la possibilità di vedere le proprie foto su uno schermo Ultra HD. L'effetto è assolutamente molto impattante per il consumatore. OLED, vedremo qualcosa presto sul mercato italiano? Con calma, non è una tecnologia che vogliamo far partire immediatamente, è un prodotto comunque ancora molto costoso per i bassi volumi e quindi costi produttivi molto alti, sarà certamente un pezzo del futuro della tecnologia dei TV e dei grandi schermi nel futuro. Bellissimi colori, tantissime possibilità di sviluppo, però per l'anno prossimo. Allora Gianfranco, potremmo sicuramente rubare uno slogan che abbiamo sentito in questa fiera: curve is the new flat, cioè il curvo è il nuovo pannello piatto. Allora, è sicuramente in parte così perché i produttori ci stanno credendo, ma tutto nasce anche da ragioni tecniche e tecnologiche, non solo di marketing. Nasce da ragioni tecnologiche per l'OLED, che è più facile da produrre, o meglio viene prodotto con minori scarti, proprio se viene leggermente curvato in modo tale che i due vetri che ne compongono il substrato vadano meglio in pressione tra di loro. Da questo scherzo della natura, diciamo così, questo stratagemma produttivo, nasce poi l'idea di fare invece gli schermi curvi, si è visto che forse così brutti non sono, anzi, devo dire la verità, alla vista di un occhio che magari non è così neanche necessariamente interessato alla qualità di visione, ma proprio anche all'impatto estetico del TV, vedere la linea arrotondata dello schermo rende il TV ancora più leggero alla vista, esteticamente intendo dire, perché chiaramente invece di essere un lingottone molto monolitico e rigido, diventa un qualcosa che si può curvare, idealmente quindi un foglio o qualcosa che ci assomiglia, quindi sicuramente è una cosa che colpisce, è un elemento che differenzia. Quanto questo sia funzionale a una visione migliore, potremmo parlarne a lungo, ne abbiamo parlato a lungo in questi giorni ai diversi stand. Io personalmente ho qualche dubbio, non credo che una distorsione dell'immagine sia un grande vantaggio, ma sono assolutamente certo che in termini di marketing la cosa ha un valore importante e che nei negozi piacerà, al di là del fatto che dal punto di vista prettamente tecnico, quando mi metto il cappellino da tecnologo, la cosa non mi sembra una buona idea, perché sicuramente porta delle distorsioni e l'ipotesi di avere una percezione dello schermo più grande è decisamente marginale. In più complica la vita perché sì, effettivamente lo schermo curvo avvolge lo spettatore, ma solo se lo spettatore è messo nella posizione centrale e a una distanza che viene un po' definita dal raggio di curvatura. Se io sono una visione decentrata, probabilmente il TV curvo mi dà qualche fastidio in più. Se è una visione molto lontana, il contributo della curvatura si perde di fatto completamente. Resta importante il fatto di differenziazione estetica, che in negozio probabilmente farà la differenza. Bene, dicevamo di Samsung che è sicuramente quello che ci crede di più, ciò non toglie che, come dicevi tu prima, ci sono molti altri produttori che hanno già pronto a catalogo un TV curvo. Stiamo parlando sia di tecnologia OLED, ma quasi pochissimi OLED, poi parliamo tra poco degli OLED, e molti di LCD. A maggior ragione potremmo dire che qui c'è stata una forte spinta del marketing, non c'era nessuna ragione per l'LCD di fare cose curve, e quindi il marketing sicuramente ha avuto la meglio in questo caso. Senti, poi torneremo anche su questo tema nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. A proposito di curvatura, sia LG che Samsung hanno svelato TV addirittura che si piegano, che sono piatte ma che diventano curve. Questo per molti è stato la notizia più eclatante dello show di quest'anno. Si tratta di TV che sono piatti, planari, ma premendo un tasto sul telecomando assumono, si arricciano, fatemi dire così, quindi con un meccanismo a soffietto che è posto nella parte posteriore, incurvano l'estremità e diventano appunto concavi come i TV curvi di cui stavamo parlando prima. Quindi sono TV piatti o TV curvi a seconda della configurazione. Per chi li ha creati, quindi in questo caso li ha mostrati sia LG che Samsung, entrambi dicono appunto che così, a seconda dello spettacolo che si guarda, si può utilizzare una modalità o l'altra, quindi una visione disimpegnata oppure con tanta gente, quindi anche decentrata, è meglio forse lo schermo piatto, una visione più cinematografica e più magari dove si va a prendere la posizione migliore, eccetera eccetera, è meglio forse lo schermo curvo. Sembra, visto che si tratta in entrambi i casi di prototipi che non saranno commercializzati sicuramente nel corso di quest'anno, sembra più un esercizio tecnologico per dimostrare che queste nuove tecnologie, ma in realtà non è soltanto OLED, perché anche, è stato applicato anche sugli LCD, anche se di grandi dimensioni, si può ottenere un TV diciamo flessibile, ma la flessibilità è comunque molto limitata a pochi gradi di curvatura e quindi non granché, e poco più, cioè non sembra in questo momento un prodotto destinato, almeno in questa forma, a un futuro commerciale. Però il wow factor, diciamo così, quindi ha fatto stupire molti, ha fatto accorrere in tanti agli stand di Samsung e LG, quindi la loro funzione evidentemente in una fiera come questa ce l'hanno. Allora, tra poco parliamo di OLED, perché questo è un tema che avevamo visto molto forte lo scorso anno, molto meno quest'anno. Tra poco parliamo di OLED, quindi di questa nuova tecnologia che soppianterà, abbiamo detto, plasma ed LCD, lo abbiamo detto in altre puntate. Prima però parliamo di risoluzione. Noi abbiamo oggi di fatto, i televisori sono tutti Full HD, è uno dei mega trend che abbiamo già commentato lo scorso anno, che stiamo commentando da molto tempo, è quello del 4K. Quest'anno che ruolo ha avuto? Il 4K sta penetrando nella gamma, quindi non è più relegato a un modello top di gamma, ma oramai è un elemento fondamentale di tutta la gamma medio-alta, quindi diventa un elemento assolutamente importante, centrale nella scelta di un TV. Non è più soltanto per chi voleva spendere tantissimi soldi, adesso arrivano e stanno arrivando dei TV 4K a un prezzo, con un premio, diciamo, rispetto all'equivalente Full HD, di qualche centinaio di euro. Beh, Gianfranco, ci fermiamo per un minuto. Questo è 2024. Tra poco parleremo del, chiamiamolo, problema che hanno i 4K, non tecnologico, ma di disponibilità di contenuti, e poi parliamo di OLED. A tra poco. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024 Radio 24. Riprende 2024, questa è una puntata speciale realizzata a Las Vegas, e con noi Gianfranco Giardina, direttore del magazine digitale dday.it. Allora Gianfranco, a proposito di 4K, c'è però un problema. Il problema per i 4K resta un po' sempre lo stesso di quando ne abbiamo parlato già anche in trasmissione altre volte, ovvero i contenuti non ci sono. Qualcuno sperava, che se ne era un po' parlato, che il lente standardizzatore del Blu-ray disc inventasse un nuovo disco, una sorta di Blu-ray modificato, capace di contenere contenuti in 4K, e ovviamente che dovrebbe essere letto da lettori di nuova generazione. Questo non è accaduto a questo giro, e oramai si può dire che non accadrà più, perché tutti gli indirizzi sembrano oramai dire che il 4K arriverà sì per i contenuti, ma arriverà in via streaming. È chiaro che questa è una visione molto americana, se mi consente il termine, del 4K, nel senso che fa conto sulle reti e sulla capacità di queste reti e sullo sviluppo, anche l'abitudine ormai allo streaming del pubblico americano, e mentre in Italia per esempio risulta più difficile pensare che le infrastrutture che non reggono oggi in molti casi in uno streaming video in standard definition, che fanno moltissima fatica a reggere lo streaming in full HD, possano garantire uno streaming in 4K. Va detto che è vero che 4K è 4 volte il Full HD, ma è vero anche che arrivano insieme a 4K nuovi codec, quindi HEVC, che è il codec diciamo più diffuso, o VP9, ma in ogni caso vuol dire arrivare ad avere una buona qualità in 4K con uno streaming da 15 megabit al secondo, che è circa il doppio di quello che serve per fare un Full HD oggi. E quindi in teoria speriamo che possa arrivare qualche cosa anche per i più fortunati in Italia che hanno una buona DSL o la fibra, sicuramente non per le DSL base. Sì. Comunque confermiamo che il 4K attualmente è inutile. Il 4K attualmente è utile soltanto per le fotografie, quindi per chi vuole vedere fotografie a 8 megapixel e non a 2 megapixel come fa su un TV oggi, e quindi per i fotoamatori, e poi è utile per chi crea dei contenuti in 4K. Sony ha presentato una videocamera 4K da $2,000, quindi comunque non economica, e poi qualcuno dice c'è qualche smartphone che si dice che appunto che il prossimo Galaxy S5 avrà la capacità di ripresa in 4K, per esempio, però roba. Ti do un minuto per dirci che il 4K sta arrivando anche nell'informatica, che è comunque un dato interessante di questo Consumer Electronics Show. Sì, si sono visti per esempio da Toshiba dei notebook con schermo 4K già nativo, e oppure molti esemplari Philips, cito Philips, cito Lenovo, potrei citarne altri, di monitor per PC 4K, che vuol dire appunto da 8 megapixel, a costi anche accessibili, cioè questi monitor verranno lanciati con un prezzo di lancio intorno agli $800, quindi sicuramente cari rispetto ai monitor normali, ma danno la possibilità per esempio a chi lavora con le immagini a livello professionale, ma anche a livello amatoriale, fotoamatori sono tantissimi, di vedere le proprie immagini a 8 megapixel, di editarle in Photoshop per esempio a 8 megapixel, che vuol dire non do essere costretti a continuare a fare zoom per vedere il dettaglio, ma vederlo direttamente sull'immagine quasi all'ingrandimento al 100%. È un vero cambio epocale dal punto di vista dell'informatica. Forse direi il 4K è molto più utile al momento senza contenuti nell'informatica che nel TV. A questo punto parliamo degli OLED, prima però di dare la parola a te, diamo la parola a Paolo Locatelli, che è il direttore commerciale di LG Home Entertainment, perché LG è, se non l'unico, ma sicuramente quello che ci crede di più tra i grandi produttori di TV, crede proprio nell'OLED. LG crede nell'OLED, ha creato l'OLED, siamo stati i primi a lanciarlo anche in Italia. Ci crede talmente tanto che ha investito moltissime risorse, e è proprio di questi giorni l'annuncio che partiremo a breve con una fabbrica in Messico, dopo aver già iniziato le produzioni in Corea, Cina, Thailandia, Polonia e Brasile. Quindi sono 6 fabbriche, per dire quanto ci crediamo. Quindi inizia una nuova era, siamo convinti che il futuro sarà l'OLED, che via via rimpiazzerà i televisori a LED. Chiaramente è stata una scommessa che abbiamo iniziato qualche anno fa, l'avevamo già presentato diverse volte, poi finalmente siamo arrivati con un po' di ritardi, ma siamo arrivati primi, e quindi oggi siamo convinti, lo si vede, che riusciremo a sviluppare volumi sempre più ampi, quindi abbassare i costi di produzione e quindi via via ridurre il premio che è richiesto per avere un prodotto che basta vederlo per capire la differenza in termini di visione che ha rispetto a un LED tradizionale. Premesso che tutti quelli che vedono un TV OLED vorrebbero averlo, poi magari non se lo possono permettere, ma vorrebbero averlo, non serve adesso avere un prezzo preciso, ma gli ambiti generali di prezzo anche a medio termine che LG prevede di poter raggiungere, se si sanno già come indicazioni. Sì, l'indicazione ne abbiamo, stiamo per uscire con un modello a breve, attualmente siamo a 8.000 euro nei negozi, un modello a breve chiaramente despecificato rispetto a quello che abbiamo in commercio attualmente, con cui raggiungeremo i 7.000 euro, e nella seconda parte dell'anno c'è un modello nuovo che peraltro è qua esposto, che il nostro obiettivo è arrivare a 5.000 euro a pubblico, 55 pollici. Allora, a proposito di OLED, Gianfranco, abbiamo visto pochi produttori credere in questa tecnologia rispetto allo scorso anno. C'era molta più euforia lo scorso anno, quest'anno alcuni sembra quasi che l'abbiano messi nel cassetto. L'hanno sicuramente messi nel cassetto, perché ci sono dei produttori anche blasonati, cito due tra i più importanti, Sony e Panasonic, che avevano dei prototipi, sì, ma meravigliosi, di OLED, tra l'altro OLED 4K, prototipi allo stand, e invece in questo momento allo stand non ce l'avevano più, o quasi, nel senso Sony non aveva un OLED al proprio stand, Panasonic li ha trasformati in prodotti professionali, quindi per usi diversi da quello domestico, e quindi al momento, come dire, sul fronte consumer messi in frigo. La cosa colpisce, se non la si sa leggere, ma una volta letta risulta molto chiara. In questo momento produrre OLED vuol dire fare sicuramente pochi numeri, perché i prezzi non possono essere troppo bassi, sotto un certo limite, per motivi di ancora produzione da mettere a punto e economie di scala che vanno ancora raggiunte. E quindi alcuni produttori, direi quasi tutti, hanno pensato che non fosse opportuno portare adesso sul mercato l'OLED, e anzi aspettare un attimo e sfruttare invece tutte le economie che invece sono già super innestate sul fronte degli LCD. LG crede invece che investire, perché come dicevamo, essere sul mercato con gli OLED oggi è un investimento per il produttore, non è un guadagno in senso stretto, quindi LG ritiene che su OLED bisogna investire in maniera importante, quindi avere una gamma di prodotti, cercare di raggiungere quelle economie di scala. Perché? Perché LG ritiene, ma lo riteniamo un po' tutti i produttori lo ritengono in realtà, che l'OLED non sia semplicemente un passaggio, ma sia veramente una pietra miliare della TV, e che noi presto o tardi avremo, non dico tutti i TV OLED, ma insomma, come oggi abbiamo l'LCD e un pochino di tubi catodici rimanenti sul mercato, un domani avremo l'OLED e un pochino di LCD rimanenti sul mercato. Questo è lo scenario che si pone. Quindi LG dice: partendo presto mi porto in vantaggio, certo investendo dei soldi. La realtà è che il consumatore però può avere già oggi con i modelli Full HD, e entro l'anno con gli LCD, gli OLED 4K che LG ha mostrato, che sono veramente incredibili per qualità, un TV che ha prestazioni assolutamente mai viste. Vedere un TV OLED 4K oggi, come li abbiamo visti in fiera, lascia assolutamente a bocca aperta, e devo dire lascia a bocca aperta anche chi ne ha visti un po' di tutti i colori, come sottoscritto negli anni, prototipi, tecnologie anche nuove, anche belle, è stato nei laboratori. Ecco, TV così visti anche in fiera, velocemente, di passaggio, con materiali che non potevamo scegliere noi, ma difficile dire di non essere di fronte a uno spettacolo incredibile. Ecco, quindi per quanto mi riguarda, il TV OLED 4K, gamma che sarà in produzione, quindi non prototipo, che ho visto nello stand di LG, è il best of the show. Per quanto mi riguarda, semplicemente perché guardando in prospettiva vedo, spero, mi immagino che quei 5.000 euro che abbiamo sentito in prospettiva già nel 2014 possano diventare nel 2015 4.000, 3.000, magari 2.000 per qualche entry level, e quindi nel giro di un paio d'anni mettere, sicuramente per prestazioni ma anche per prezzo, in difficoltà gli attuali LCD. Bene, noi nelle prossime settimane abbiamo preso nota di tutte le altre novità che abbiamo visto in questi giorni al Consumer Electronics Show. Del resto tu e la tua redazione che si è spostata e ha creato un piccolo ufficio, una piccola redazione a Las Vegas, avete già pubblicato un sacco di foto, video, notizie su dday.it. Avremo modo di entrare nello specifico nelle prossime settimane parlando insomma di un sacco di altre cose. Gianfranco, buon ritorno in Italia. Grazie mille, anche a te buon ritorno. Bene, così concludiamo questa puntata di 2024. Come sempre grazie per la vostra attenzione. Naturalmente da questa fiera gigantesca e sempre molto interessante abbiamo raccolto molti spunti di cui parleremo anche nelle prossime settimane a 2024. Continuate a scriverci, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Potete contribuire al dialogo anche su Twitter e su Facebook. Io sono Enrico Pagliarini, grazie ancora a Pietro Lacorte che si è occupato della parte tecnica. Noi ci risentiamo la prossima settimana dall'Italia. Un buon ascolto con i programmi di Radio 24. 2024. 2024. 2024. 2024.